Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea, di giornali europei, di questioni europee. Vi ricordo subito che oltre a eventualmente risentirla in podcast, potete mandarci dei messaggi WhatsApp o SMS al 349-238-6666, oppure potete mandarmi dei messaggi su Twitter. Il mio account è Giulia_Crivelli. Come potete immaginare, anche se forse qualcuno di noi è un po' stufo, possiamo usarla questa parola, si è parlato tantissimo dell'esito del referendum di domenica scorsa, quello sulla riforma costituzionale. Come sappiamo tutti, questa vittoria non tanto a sorpresa, ma con un grande distacco di 20 punti percentuali sul sì, se ne è parlato su tutti i quotidiani europei, sui siti appena si sono avuti i primi risultati domenica sera, domenica notte, se ne è parlato anche sui giornali americani e internazionale di questa settimana, che per via delle festività è in realtà in edicola da giovedì, quindi è in edicola già da 2 giorni, dedica proprio la copertina alle reazioni che ci sono state nel mondo, in particolare in Europa. E allora vi leggo per esempio l'articolo che normalmente è l'editoriale che internazionale ha scelto di tradurre, normalmente ne sceglie due, questa volta ha valutato che quello dell'Independent intitolato Le complesse ragioni del no valesse la pena di pubblicarlo interamente, quindi c'è un solo editoriale ed è questo. Vi leggo la prima parte. Come la Brexit e l'elezione di Donald Trump alla presidente degli Stati Uniti, il referendum italiano è stato una grande sorpresa, ma per il motivo opposto. Dai sondaggi sembrava che i due fronti fossero quasi alla pari, invece il risultato è stato netto e inequivocabile, con un'affluenza del 68%, molto alta per un referendum. Gli italiani hanno respinto la proposta di riforma costituzionale con il 60% di no e il 40% di sì. Vi leggo l'ultima parte. Comunque vadano le cose, rimane da capire se un movimento che raccoglie consensi da destra a sinistra, si parla naturalmente del Movimento 5 Stelle, e che finora è stato un partito di protesta, riuscirà a rimanere unito quando sarà sottoposto alle pressioni che comporta governare un paese. Quindi l'Independent dà come possibile una sfida governativa appunto del Movimento 5 Stelle. La sua esperienza nelle amministrazioni locali non è di buon auspicio, e il riferimento naturalmente è quello che sta succedendo a Roma. Un'altra lettura interessante, quella di El País, in questo caso si tratta di un giornale leggermente schierato sulle posizioni del centro-sinistra, come un po' è anche l'Independent, ma soprattutto sono entrambi giornali, soprattutto El País, europeisti, quindi spaventati appunto da quello che potrebbe implicare, secondo alcuni osservatori, la vittoria del no, cioè un rafforzamento delle posizioni anti-europeiste sia del Movimento 5 Stelle per certi versi, ma ancora di più della Lega di Matteo Salvini. Il titolo di questo articolo di El País, che trovate sempre su Internazionale di questa settimana, è L'apocalisse controllata. Ancora una volta gli italiani sono sospesi tra il rischio di un crollo imminente e la consapevolezza di potersela cavare, e non ne usciamo. Noi continuiamo a avere questo, cioè continua a essere molto forte, e forse come tutti gli stereotipi qualche fondamento ce l'ha, questo stereotipo appunto che noi siamo sempre sull'orlo di una crisi, all'ultimo momento ci salviamo. Vi leggo a proposito del referendum italiano, abbiamo detto non sono stati soltanto gli osservatori europei, i giornali europei a commentarlo, ma anche quelli americani. E allora questo articolo che ho trovato sul Washington Post, che comincia così: un fantasma si aggira in Europa, quello delle urne. Il voto per molti cittadini europei ha rappresentato l'occasione per mandare a casa i propri leader, gettando nell'incertezza i rispettivi paesi. L'ultima cacciata è quella del premier italiano Matteo Renzi. Precisiamo qui che probabilmente né il Washington Post né El País né molti altri giornali sanno che le crisi di governo in Italia poi possono avere gli sviluppi più strani, quindi cacciata vedremo. Quindi l'ultima cacciata è stata quella del premier italiano Matteo Renzi dopo la vittoria del no al referendum costituzionale, ma la Francia, i Paesi Bassi e la Germania si trovano di fronte a elezioni difficili il prossimo anno e il destino dell'Unione Europea è in bilico. Il malcontento degli elettori, scrive questo quotidiano americano che è appunto di Washington, è uno dei 3 principali quotidiani di diffusione nazionale negli Stati Uniti, sono New York Times, Washington Post, USA Today, e questo in particolare, mi piace ricordare, è di proprietà di Jeff Bezos. Il giornale era in crisi, come moltissimi giornali di carta. È stato comprato da Jeff Bezos, che sappiamo è il fondatore di Amazon, forse una delle persone che ha più contribuito a far sviluppare la internet economy, però poi alla fine, quando si è trattato di comprare un giornale, ne ha scelto uno di carta. E quindi scrive ancora il Washington Post: il malcontento degli elettori è stato alimentato in parte dall'effetto persistente della crisi economica iniziata nel 2008, ricordiamo tutti, con innescata, anche se naturalmente è stata appunto innescata, cioè sotto c'erano un sacco di altre ragioni, era come una pentola a pressione, l'economia e la finanza mondiale pronte a esplodere. Comunque l'innesco è stato, lo ricordiamo, il fallimento della banca d'affari Lehman Brothers negli Stati Uniti. Quindi quella crisi economica, scrive il Washington Post, continua a deprimere molti mercati del lavoro in Europa, ma i partiti antisistema sono ormai fiorenti anche in quei paesi dove finora si era evitato il peggio, sfruttando il risentimento verso gli immigrati, i timori per il futuro e un atteggiamento negativo diffuso a livello globale verso la globalizzazione. A proposito dello spettro del fantasma delle urne, è interessante quest'altro articolo apparso su El País, che riguarda il premier spagnolo Mariano Rajoy. Sapete che finalmente, dopo molti mesi, quasi un anno senza un governo, la Spagna adesso un premier, un governo e con una maggioranza un po' strana in Parlamento, però ce l'ha. Anche Rajoy è tornato su un tema, su una questione che anche in Spagna è aperta da molto tempo, cioè quella della riforma costituzionale. Ci si chiede però, perché questa uscita di Rajoy è stata fatta il 6 dicembre, che quindi martedì scorso, quando si compivano i 38 anni di questa Costituzione che era stata adottata durante la transizione fra la dittatura franchista e la democrazia spagnola. E quindi questa occasione è stato il momento, secondo Rajoy, giusto per parlare di riforma della Costituzione. Io non lo so, lo dico naturalmente con un po' di forse leggerezza esagerata, però non lo so se è il momento giusto per mettere mano alle costituzioni, ma naturalmente se e anche il Paese sottolinea che appunto bisogna stare molto attenti, soprattutto se si fa di questi cambiamenti oggetto di referendum. Ricorderete sicuramente tutta la polemica seguita al referendum sulla Brexit del 23 di giugno, quando poi vinse il Leave anziché il Remain. Si disse che quella forse sarebbe stato meglio non sottoporre a un referendum una questione così delicata. E a proposito di Brexit, vi segnalo l'articolo del Financial Times: la premier britannica Theresa May, che è subentrata a David Cameron, che, un po' come è successo a Renzi, si è dimesso perché era un fautore del Remain e invece naturalmente ha perso e quindi si è dimesso. A lui è subentrata Theresa May. Al Financial Times ha detto, parlando dei negoziati, facendo un po' il punto sui negoziati sulla Brexit che sono in corso, ha detto: mi auguro di vedere un processo il più possibile armonioso e ordinato, sarà complesso perché ci sono molte questioni da risolvere. Ecco, restando in tema di Brexit ma spostandoci su Le Figaro, interessante quest'altro aspetto dell'evolversi dell'uscita appunto del Regno Unito dall'Unione Europea, che ricordiamo potrebbe addirittura richiedere 2 anni. Le Figaro spiega che la Francia sta corteggiando alcune grandi banche della City di Londra, e in realtà è più che un rumore, è qualche cosa che Benoît de Juvigny, che è il segretario generale dell'AMF, l'equivalente della nostra Consob, quindi l'autorità di controllo finanziario, ha detto che appunto si sarebbe in trattative avanzate per trasferire parte delle operazioni da Londra a Parigi in seguito appunto alla Brexit. Tutti stanno cercando di fare ponti d'oro a chi volesse lasciare la City, Italia compresa, Milano compresa, si è candidata, ma c'è un evidente problema anche linguistico per portare via alla City alcune delle attività finanziarie che tradizionalmente erano sempre state lì. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Ci risentiamo domani mattina per la rassegna stampa dei quotidiani italiani. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.